di quello che fai, che hai un buon lavoro e che non soffri mai. Dimmi, dimmi, dimmi, dimmi perché c'è tanta gente che ha studiato, che è preparata, ha scelto, ha scelto, ha scelto proprio te, perché per te è tutto facile, sei felice. Felice, ma sei felice. Vorrei sapere se tu hai vissuto di prima persona tutte le storie che dici, tutte le azioni che fai, se quando avrò bisogno di te, dirai mai ti do una mano, oppure girerai lo sguardo, come al solito non avrai ascoltato. Sei felice, dimmi che sei felice, sei felice, sei felice.